America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Very hard to see in the dark, but I hope you can see the screen. Thank you, enjoy. Oliver Stone, chi parla, è il grande regista americano. Sono stato l'altra sera a vedere l'anteprima del suo nuovo film Snowden, film dedicato a Ed Snowden, il cosiddetto whistleblower, il dipendente della CIA, della National Security Agency, che ha rivelato al mondo come in realtà l'intelligence americano facesse atti di spionaggio nei confronti di grandi leader mondiali e soprattutto di centinaia di milioni di persone. Tutti ricorderete la storia, perché è una storia che ovviamente ha sconvolto letteralmente il mondo per un bel pezzetto. So, first thing, can I get your cell phone? Where you want Laura to be on the recording? Ecco, avete sentito da questa musica, questa è la scena d'apertura del film, la scena in cui ci sono i giornalisti del Guardian che a Hong Kong stanno aspettando Ed Snowden. È un appuntamento concordato, Snowden deve consegnare loro il chip con tutta la memoria di tutti i documenti possibili e immaginabili che è riuscito a, tra virgolette, rubare all'NSA, alla National Security Agency. Fra gli attori, Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Shailene Woodley, Scott Eastwood, insomma, un film con un grande cast, un film interessante, un po' lento, devo dire, e ogni tanto forse avrebbe potuto anche tagliare una quindicina di minuti, un film che dura due ore. Vi ricordo anche la storia, dunque, vi dicevo, parte l'apertura con Snowden che arriva a Hong Kong e in questo albergo si incontra con Glenn Greenwald, Barton Gellman del Washington Post e la documentarista Laura Poitras, e insieme vanno in una stanza e lui comincia a fargli vedere tutti questi documenti. Dopodiché c'è un flashback e c'è la storia di Snowden, che all'inizio vuole fare il militare, vuole fare il marine, poi non ci riesce, si rompe una gamba e comincia questa sua avventura nella comunità dell'intelligence. Il periodo è fra circa il 2004-2005 e il 2013. 2013 è l'anno in cui ci sono queste rivelazioni. Il 20 maggio del 2013 Snowden lascia Hawaii, il 5 giugno esce il primo articolo su The Guardian. Il 14 giugno del 2013 Snowden viene incriminato, nell'agosto del 2013 la Russia gli concede asilo politico. Ecco che arriva la politica. E la politica arriva e ci riporta all'attualità del nostro tempo, perché viviamo queste elezioni americane in un clima di menzogne, di fuga di notizie. Ci sono state queste rivelazioni in arrivo da Mosca sul Partito Democratico. Ieri al centro dell'attenzione c'è stato Colin Powell, l'ex segretario di Stato, il quale anche lui era stato accusato di aver utilizzato delle email da un server segreto, come aveva fatto Hillary Clinton. Donald Trump lo ha attaccato e allora Powell ha attaccato a sua volta Trump e ha detto: è una disgrazia nazionale, un reietto internazionale, quest'uomo non può essere votato. Fatto sta che la verità prevale. La verità prevale anche perché abbiamo a disposizione strumenti digitali che rendono la circolazione di notizie molto più rapida e molto più facile, se vogliamo, perché ci sono personaggi come Snowden e prima di lui Assange, che era riuscito anche lui a disseminare dei documenti riservati con WikiLeaks, che richiamano un po' l'autorità all'ordine. Attenzione, potete usare il segreto di Stato, però fino a un certo punto. E allora la domanda di fondo su questo film, alla fine, è inevitabile. Snowden è innocente o è colpevole? È un eroe o un traditore? Beh, la notizia di ieri è che Amnesty International ha chiesto che sia concessa la grazia a Snowden. Però il problema non è così semplice, ci sono, insomma, delle situazioni un po' complicate. Comunque sia, l'ho chiesto anche a un ospite di eccezione che era lì l'altra sera, Sean Penn, il grande attore Sean Penn. E lui mi dice: alla fine la domanda di questo genere è molto complicata, è difficile estricarsi da questo. Posso dirti però di sicuro che è un film eccezionale. Ecco, curioso, perché che sia un film eccezionale da vedere lo dice anche Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino da Mosca. Il New York Times qualche tempo fa aveva detto: ma che ci sia qualche legame tra Snowden e Mosca, come mai attacca Snowden solo l'America e non attacca mai i russi, che fanno la stessa cosa, i cinesi fanno la stessa cosa? E quindi c'era un'insinuazione che forse ci fosse un legame così un po' troppo vicino in questo suo rifugio, tra virgolette, politico. E allora, tornando al discorso di fondo, eroe o traditore? L'ho chiesto anche a Oliver Stone e mi ha risposto, come sempre e da grande maestro, sfuggendo alla domanda. E dice: guarda, no, io non posso dirti questo, sei tu che devi farti la tua idea dal film. Gli faccio anche gli auguri, perché Oggi, giovedì, appunto, è il suo compleanno. E sì, è facile dire fatti un'idea del film. Beh, il film ti dice in modo molto chiaro e trasparente che Ed Snowden è stato un uomo che si è sacrificato, ha sacrificato la sua libertà per la libertà dei suoi concittadini. Beh, altri non la pensano così. Ed Epstein, per esempio, che ha scritto un libro in cui invece cerca di ricostruire come Snowden sia stato una pedina in mano dei russi e anche dei cinesi. E altri ancora, investigatori, ritengono che queste sue rivelazioni abbiano poi gettato le basi utilizzate dai terroristi islamici che, dopo essersi accorti di quello che succedeva, hanno smesso di utilizzare internet e hanno potuto fare un attentato come quello di Parigi grazie al fatto che non comunicavano più direttamente su internet ma attraverso reti riservate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, è un compleanno molto importante, quello di Oliver Stone, compie oggi 70 anni. A lui vanno i miei auguri, quelli di Radio 24 e di tutti voi ascoltatori. E dunque dedichiamola a lui, la canzone del giorno, con Peter Gabriel, che ha scritto questo testo e questa musica per il film The Veil di Peter Gabriel, Il Velo. Beh, un titolo molto simbolico sia per il film che per il nostro tempo. Underneath the sky where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. One man in a boat out on the sea, sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. There's no safe place to go. Now you've let that whistle blow. Exactly what is going on. Show exactly who is looking on. Stories start to leak, they color your name. While up above, cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from there. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.